difficile stare in questo posto dove non trovo persona che conosco. Se qua vedo qualcuno io mi discosto, perché il mio pensiero non è come il vostro e spesso mi fermo. Penso alla mia vita cercando ogni giorno una via d'uscita che mi tolga di dosso un po' della fatica che dalla mia nascita è stata stabilita. Adesso mi incanto, guardo il soffitto, non c'è rumore, torno tutto è zitto. Nella mia stanza non c'è il sole, ma la lampada mi dà il giusto colore. Ora rifletto sulla mia posizione, le mie certezze senza valore sono sempre messe in discussione, ma dentro di me il problema non si pone. Niente, mi sembrano verbi buttati al vento, perché non mi sono mai portati realmente. Cazzo 99 vale su 100. Cose da niente, mi sembrano verbi buttati al vento. Realmente mi cazzo 99 vale su 100. Non so se c'è una strada giusta da seguire, per la quale è giusto anche morire, o se tutto questo fosse solo soggettivo. Io opterei per sentirmi vivo, vedendo per esempio una vista mozza a fiato, facendo ciò che sempre ho sognato, ammazzando chi ti sta sul cazzo, correndo in giro, facendo il pazzo. In fondo alla via vedo una grande luce, posso solo immaginare dove conduce. Penso che quella sia la finalità, ciò che cerchiamo è la felicità, che ci porterà a raggiungere la nostra meta. Fondamentale che tu lo vuoi, prendi esempio da chi vuoi, se vuoi da noi. Non amo parlare di ste cose da niente, mi sembrano verbi buttati al vento, perché non mi sono mai portati realmente. Cazzo 99 vale su 100. Niente, mi sembrano verbi buttati al vento. Realmente mi cazzo 99 vale su 100.